E abbiamo unito ovviamente i due livelli, perché sotto elezione anche i candidati al Parlamento in ogni territorio e molto spesso vanno a proporre le grandi opere che secondo loro questo territorio avrebbero bisogno, e purtroppo molte di queste grandi opere sono ancora retaggi del passato, in particolare autostrade o strade. Abbiamo diversi esempi, abbiamo insomma due autostrade nel modenese, il passante di mezzo a Bologna, piuttosto che vedevo le dichiarazioni di ieri di Franceschini a Ferrara, che rilancia la E55, un'autostrada, una strada che dovrebbe correre lungo la costa. Ecco, quindi noi abbiamo voluto, come dire, provare a mettere nel dibattito nazionale e regionale i problemi veri che secondo noi la nostra regione, il bacino padano, ha, sono fondamentalmente: uno, di qualità dell'aria, di inquinamento di cui si muore, non lo diciamo noi ma lo dice anche l'Agenzia Europea per la Sanità, per l'Ambiente, su circa 80.000 i decessi prematuri stimati in Italia. L'altro aspetto è che facciamo i conti con i cambiamenti climatici e la mobilità deve cambiare, abbiamo degli obblighi europei che si devono portare a ridurre il traffico su gomma, e viceversa oggi sul tavolo della regione, così come nei tavoli dei ministeri, circa i due terzi delle opere infrastrutturali previste per questo territorio, per l'Emilia Romagna, sono strade, quindi un rapporto 2-1 tra strada e ferro o trasporto pubblico. Questo è un tema che noi vorremmo fosse al centro del dibattito, chiarendo che il futuro non può essere la gomma. E in particolare tu prima citavi l'Europa si sta già muovendo in un'altra direzione, quindi le scelte italiane sono un po' vecchie. Sì, infatti noi nel nostro documento parliamo anche di competitività economica. Faccio sempre questo esempio: ai valichi alpini, Germania, Austria, così come Svizzera, stanno incentivando moltissimo il traffico merci su treno, e questo magari sia aprendo valichi, penso al Gottardo, ma anche al Brennero si stanno utilizzando fondi una volta destinati per l'autostrada per raddoppiare il passaggio ferroviario, e dall'altra ci sono dei dazi, dei vincoli. Lo stesso Tirolo sta provando da tempo a mettere un'interdizione al traffico su gomma nel proprio territorio. Quindi questo cosa vuol dire? Che noi oggi parliamo di scambiare merci col centro Europa, col nord Europa, ma ai nostri confini e vogliono sempre meno camion. Viceversa, anche qui facendo un esempio territoriale, no, nel Parmense si parla molto della cosiddetta Tibre, la Tirreno Brennero, che dovrebbe collegare il porto di La Spezia, che è uno dei principali porti italiani, penso il secondo, e con il centro Europa. E in quella stessa direttrice, no, dove si vuole fare un'autostrada, c'è una ferrovia che è tra le più disastrate d'Italia, dove i treni moderni oggi non riescono a passare l'Appennino perché ci sono delle pendenze eccessive, non ci sono binari adeguati, è un unico binario, e sul Prosecco, andando poi oltre nella parte che supera il Po, addirittura la linea non è elettrificata. Quindi da una parte abbiamo, come dire, ancora i residui delle strade che si vogliono costruire, strade pensate negli anni 60, e dall'altra abbiamo linee ferroviarie che quelle sì sono rimaste agli anni 60 come impostazione. Questo è un po' il quadro, e quindi noi parliamo anche di competitività e anche di lavoro, perché molto spesso rimodernare, raddoppiare una linea ferroviaria, fare una linea di tram o perché no delle piste ciclabili. Copenaghen ha fatto una politica fortissima di incentivazione delle piste ciclabili, che hanno un clima sicuramente peggiore del nostro. Bene, fare queste opere è molto più semplice, molto più veloce anche da cantierare rispetto alla grande opera autostradale che ha impatti ambientali, ha iper lunghissimi e fortunatamente per noi a volte molto spesso rimangono impantanate per anni. Quindi anche dal punto di vista di chi dice vogliamo creare lavoro, bene, ci possono essere altre alternative molto più veloci. Tra i nodi ancora irrisolti della nostra regione, per venire a Bologna, c'è sempre l'antica questione del servizio ferroviario metropolitano. Sì, il servizio ferroviario metropolitano, rispetto agli accordi che c'erano all'epoca con il ministero, doveva partire contestualmente al termine dell'alta velocità che era prevista nel 2011. Anche l'alta velocità, insomma, ha avuto tempi più lunghi, però di fatto anche quella è giunta al termine. Viceversa, il servizio ferroviario metropolitano ancora langue, no? Noi citiamo alcuni esempi paradigmatici: c'è una città come Bologna, una rivestazione non riesce a arrivare facilmente in fiera con un trasporto di massa, le linee che potevano collegare all'aeroporto non sono state sfruttate, mancano alcune fermate, ad esempio di Fico, per dirne una, molto fare centro, uno fa un mega centro dove prevede milioni di visitatori e ti riduce ad utilizzare, insomma, dei mezzi così episodici e che non servono certamente. Poteva essere anche l'occasione per fare una linea che serviva anche il quartiere, quindi lo riqualificava, lo rivalutava, e ancora siamo al palo. Viceversa, poi quando si tratta di mettere mano all'autostrada, quindi a muovere oggi il passante di mezzo, e gli sforzi politici sono fortissimi, e quindi c'è una doppia velocità purtroppo sempre, no? In cui il servizio pubblico, il trasporto sostenibile è un po' la Cenerentola.